La realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. La più bella fittacamere del mondo abita a Londra in piazza Grey, ma nessuno sa che cosa c'è nei suoi tristi occhioni blu. La più dolce affittacamere del mondo sta sempre sola a sospirare. A me vengono i brividi. Questa canzone di Sergio Endrigo del 62 attribuiva qualcosa di poetico all'affittacamere. Ma l'affittacamere è un dignitosissimo mestiere, naturalmente, un mestiere equivale all'altro. Ma se io equiparo la contemporaneità in cui il sintomo più evidente, più palpabile, più rassicurante del benessere era averci una casa propria, dove entrava soltanto chi noi volessimo, dove quando una volta abbiamo chiuso la porta possiamo anche fare sacrifici, stringere la cinghia, rinunciare a tante cose, ma abbiamo casa nostra, finché c'è un tetto sulla testa puoi considerarti una persona fortunata. Non è più così. Gli italiani cominciano a affittarsi le stanze di casa. L'affittacamere di Sergio Endrigo probabilmente è una di quelle figure romantiche che in epoche ancora in cui diciamo il benessere economico era una strada in salita, anche se si vedeva comunque il punto di arrivo, faccia parte del folklore quotidiano. Siamo costellati in tutta la commedia italiana, nel cinema neorealista, ma andando ancora avanti nel cinema di genere, di persone che affittano camere. Una scena di Poveri ma belli è fantastica, in cui uno dei due belli, adesso non ricordo bene quale dei due, se Maurizio Arena o l'altro, doveva cambiarsi il letto con una con un guardiano, con una sorta di guardia notturna. Il ragazzo rientrava la sera a casa e andava a letto perché la guardia notturna andava a lavorare, però la mattina doveva alzarsi molto presto perché la guardia notturna tornava in bicicletta dal suo turno, entrava ancora nelle lenzuola calde del ragazzo, doveva sgomberare perché il letto veniva subaffittato. Erano piccoli escamotage di economia domestica in momenti di incertezza, ma oggi comincia a diventare una necessità. Gli italiani stanno concretamente e materialmente affittandosi le stanze a casa. Ma sapete cosa significa? Significa che un estraneo ti entra in casa, che una persona avere le chiavi di casa tua, una persona a fare la pipì e la popò nel tuo bagno, che è una cosa che giudico del tutto inammissibile, un esterno, un estraneo, cammina, entra in cucina, ti apre il frigorifero. Insomma, questo probabilmente, secondo me, è uno dei prezzi più gravosi della crisi economica. Cosa ne pensate? 800 24 0024. È ormai una necessità diffusa da parte degli italiani di inventarsi come affittacamere, come supporto a budget familiari traballanti. Basta rilevare che sono oltre 800.000 gli annunci attraverso cui ogni giorno offrono una porzione della propria casa. Solo nell'ultimo anno sono il 14% in più, il 26,5% in più negli ultimi due. Secondo l'analisi di immobiliare.it, gli italiani hanno bisogno di fare cassa e per riuscirci stanno rinunciando persino alla loro privacy casalinga. Se prima veniva messo in locazione l'intero appartamento, da dividere magari tra più studenti o lavoratori, oggi il 26% delle offerte di affitto è rappresentato da singole stanze all'interno dell'abitazione del proprietario. 800 24 0024, sempre il solito furbacchione mi scrive via sms: il bed and breakfast, un'attività dignitosa e sdoganata ancor prima della crisi. Nicoletti, si vede che lei ha il culo parato e non ne ha bisogno. Ammesso che abbia il culo parato, me lo sono parato da solo lavorando come una bestia negli ultimi 40 anni senza chiedere nulla a nessuno, per il signore che mi ha scritto. Detto questo, è una cosa totalmente diversa. È un numero preponderante di annunci economici di persone che di attività non fanno questo, affittano stanze a casa. All'improvviso la crisi costringe a affittare una stanza di casa, quindi la famiglia si restringe e naturalmente si cerca di massimalizzare il più possibile quello che è un bene della famiglia, quindi la casa. Alberto Zanni, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Alberto Zanni è presidente nazionale di Confabitare, che è l'associazione che riunisce tutti coloro che vogliono che venga tutelato il diritto di proprietà nella piena valorizzazione della funzione sociale che a questo viene attribuita. Io non ho nessun intento né di denigrare né di scandalizzarmi, però è un dato che comunque ci fa riflettere questo numero enorme di persone che mettono in affitto una stanza di casa propria. Non è un'attività che, diciamo, fa parte di quelle che sono sempre esistite. È un segnale che comunque su cui bisogna riflettere, o è una mia interpretazione sbagliata? No, l'interpretazione è giustissima, è un segnale che fa riflettere, è una conseguenza di questa crisi economica che già da troppo tempo sta attraversando il nostro paese, sta interessando il nostro paese. Molte famiglie, questo dicono anche le statistiche, si rivolgono e comprano oro per portare i gioielli di famiglia, anelli, catene, catenine e altri oggetti che vengono venduti con oro in cambio di denaro contante per poter, diciamo così, dare liquidità alla famiglia. Altri, forse perché hanno già venduto i gioielli o forse perché non li hanno, fanno questo tipo di attività. Quindi è un'attività emergenziale. La crisi ci costringe a rinunciare a quello che sembrava. Poi mi corregga, e questa è una mia lettura, io penso che il momento in cui mi sono sentito veramente ricco, il momento in cui avevo una casa e chiudevo la porta, ci stavo soltanto io. Vuoi anche in affitto, vuoi la prima casa in affitto con il primo stipendio quando me ne sono andato da casa dei genitori. Mi sembrava di aver conquistato un universo, casa mia, apro e non c'è nessuno dentro. Il fatto che un'infinità di persone che avranno sicuramente raggiunto anche loro felicemente questo status tornano improvvisamente a una condizione da commedia italiana del dopoguerra, in cui c'è sempre quel signore in giacca alla camera che transita per casa la mattina, che è l'inquilino a cui si affitta una casa, una stanza perché c'è bisogno. Esattamente, sì, ci si torna alla situazione appunto del dopoguerra, dove bisogna arrangiarsi, usando questo termine, arrangiarsi per arrotondare le entrate per arrivare a fine mese, e questo è un sistema che molte famiglie, anzi sempre più famiglie, stanno adottando per poter portare dei soldi in casa. Fermiamoci un secondo, abbiamo subito la prima testimonianza. Angelo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Senti, la cara amica di mia mamma ha affittato a dei ragazzi extracomunitari, questo non vuol dire niente, potevano essere anche italiani, i primi due mesi tutto bene, dopo sono iniziate le feste, portare ragazze, e sta povera vecchina, sai, non aveva neanche il coraggio. Si è trovata a gestire un casino dentro casa. Bravissimo, ecco, questa è una cosa che io ho visto con i miei occhi, perché la signora è arrivata piangente a casa di mia madre a raccontare l'accaduto. Per lei era una necessità di affittare questa stanza. Ma certo, con credo 540 euro al mese non è che può fare i salti mortali, lo sai bene. Ma aveva dato delle regole comunque. Ma certo che si danno, ma è tutto sulla parola, perché se affittare a quel livello, affittare una stanza, non è che fai contratti o cose del genere, no? Quindi non c'era neanche niente di scritto, era un 200 euro d'entrata, così che gli arrivava. E come ha risolto questo via vai di Moldavia? Non l'ha risolto, ancora non l'ha risolto. Ah, quindi ancora lì è il casino, sì, dalla mattina sì, alla sera? Sì, ancora non l'ha risolto. E cosa fanno in casa? Ma niente, adesso siamo andati io e mio amico a parlare. Come fosse casa loro, cioè? No, siamo andati io e mio amico a parlare con sti qua, a vedere di organizzare un po' la cosa, di rimettere un po' le cose a posto, ma mi sa che bisognerà andare per coi carabinieri. Non avete negoziato, cioè loro hanno detto no, ormai è casa nostra, facciamo quello che vogliamo. Sì. Così, sta povera donna, ti puoi immaginare 24 anni in Svizzera, alla emigrante col marito, per farsi su una casa e dopo trovarsi una roba del si trova il perizoma delle Moldave appesi allo stendino nel bagno. Non so, così. Certo livello, no, ma però, insomma, mi piace andare avanti con la fantasia, niente, era divertente. Vabbè, in bocca al lupo, Paolo da Udine, sì. Sì, pronto, ciao Gianluca Nicoletti. Eccomi. Io ho tre stanze in casa, due le affitto agli studenti. Ti dico che inizialmente è stata una cosa molto difficile rinunciare a due stanze, portare tutto quello che avevo nelle due stanze che affitto, portare in una. Ma adesso ti dico che sono molto contento, perché io sono pensionato, abitavo solo, e avere due ragazzi. Due studenti in casa ha portato un po' di vita, un po' di gioia. Quindi è esattamente l'esperienza opposta rispetto al signore di prima. Te, oltre, diciamo, un benessere economico, ti aiuta a socializzare, ti piace avere dei ragazzi in casa, ti fanno compagnia, ti aiutano. Esatto, ed inoltre il contratto di affitto che è annuale lo disdico ogni anno per cambiare ambiente ogni anno e perché altrimenti vivere troppo a lungo si creano gli stessi problemi che ci sono su una famiglia, piccoli asti. Sei molto saggio, eviti di riprodurre un modello familiare a casa. Ottimo, Alice. Sì, buongiorno, sono Alice di Treviso. Volevo intervenire perché è anche questa la mia esperienza. Cioè, io per uscire di casa a 29 anni ho dovuto cercare un'altra persona, la condizione sine qua non per avere un'autonomia e comunque essere indipendente dalla mia famiglia. E quindi ad oggi ho già cambiato due coinquilini ed è stata per un verso un'esperienza piacevole, però per l'altro, come diceva lei, un sacrificio perché... rinunci alla cosa più preziosa che ci conquistiamo quando abbiamo autonomia, che quando a casa nostra, per piccola o modesta che sia, siamo padroni, facciamo quello che vogliamo. Esattamente. E qual è la cosa che più ti limita, che ti senti veramente che è un sacrificio nella convivenza con questi inquilini? Ma io onestamente, ma sono miei problemi, direi l'uso del bagno. Un estraneo che mi entra e mi esce dal bagno mi atterrirebbe. Per fortuna con la nuova coinquilina abbiamo degli orari diversi, quindi in qualche modo ci incrociamo il tempo per condividere la piacevolezza della cosa, mentre con il coinquilino precedente lui era praticamente sempre a casa perché faceva l'insegnante e usciva di casa alle 8:30 e rientrava alle 11:30, tutto il resto del tempo, sabato e domenica compresi, era a casa. Quindi era imbarazzantissimo. Assolutamente sì. E come riuscivi ad avere i tuoi spazi di intimità? Non ce li avevo. E come dice, devo fare la doccia, vattene a fare una passeggiata. Cosa no, no, no, lui si restava nella sala condivisa. E tu facevi avanti e indietro con vestaglia, camicia la notte? Assolutamente sì. E ti imbarazzava? Beh, mi infastidiva più che altro, mi infastidisce la non possibilità di avere un'intimità personale, di non chiudere la porta, come diceva lei, e sapere che lì ci sono solo io e che quelli sono i miei spazi. Io ci tengo che queste testimonianze confermano quella che era la mia impressione. Fra i tanti sacrifici possibili, se ci dicono rinuncia a fare una spesa molto ricca e acquista prodotti discount, posso farlo. Rinuncia a cambiare il guardaroba ogni anno, posso farlo. Rinuncia alle vacanze, posso farlo. Ma rinuncia alla tua privatezza è veramente, secondo me, il sacrificio più grande. Paolo da Pordenone. Sì, pronto? Sì. Buongiorno. Sì. Niente, io volevo dare una testimonianza un po' diversa, nel senso che ci meravigliamo di quello che sta succedendo adesso in Italia, quello che stiamo dicendo adesso al telefono, ma in realtà diverse, tipo l'Inghilterra, è una consuetudine. Io avevo l'ex moglie che era inglese, che faceva l'assistente di volo e quindi aveva un reddito molto alto e doveva comunque condividere una casa con tre o quattro nuclei familiari diversi, addirittura padre, figlio e bambino in una camera, un'altra persona, un'altra, stesso bagno, stessa cucina, ed è una condizione che comunque da quello che sento in giro continua ad esserci. Quindi non meravigliamoci se anche in Italia arriviamo a questo punto. Diciamo però, noi eravamo abituati diversamente, quindi per noi è un sacrificio, per loro probabilmente è una cosa che fa parte della loro vita comune. Le generazioni precedenti erano abituate a dormire in quattro in una stanza, oggi se un figlio non lo separi dal fratello appena all'età della ragione ti guarda male, gli sembra un delitto. È logico, sono tutti aspetti di benessere che consideriamo acquisiti per sempre. Dobbiamo riflettere che in realtà non ci sono benefici che durano per tutta la vita, ci si può sempre rinegoziare la propria qualità di vita. Torniamo a Alberto Zanni, ricordo presidente nazionale Confabitare. Ho voluto dare qualche testimonianza a caldo, hanno subito chiamato per confermare quello che diciamo. Entriamo più nel merito delle cifre. Sì. Come si affitta? Chi affitta? Quali sono le categorie che affittano? Le categorie di inquilini? Beh, diciamo così, bisogna anche distinguere. C'è chi fa l'affittacamere, se vogliamo, di abitudine. Adesso diventa un mestiere. Diventa, di mestiere, sì. Esatto, è il termine giusto dire di mestiere. Allora è un ragionamento, ma il fenomeno che secondo me preoccupa, che va a mio avviso analizzato in questa trasmissione, è il fatto che oggi ci sono sempre più famiglie, e le percentuali aumentano in tutte le città d'Italia, che affittano, se vogliamo, anche occasionalmente, sporadicamente, una camera per poter ospitare appunto persone di passaggio, chi magari è in città perché viene a una fiera piuttosto che per impegni di lavoro, eccetera, proprio per poter incassare, per poter arrotondare lo stipendio, comunque per poter arrotondare. Ma a volte anche per pagare la rata del mutuo. Certamente, per poter arrotondare le entrate della famiglia che poi servono per quella che è la vita di tutti i giorni, dalle bollette alle utenze, la rata del mutuo, la spesa da fare al supermercato. Quindi non è un'imprenditoria che si decide una casa grande, sono rimasto solo e apro un bed and breakfast, che è anche un'attività interessante, anche molto gratificante. È che dico ai figli, andate a dormire tutti e due nella stessa stanza e una camera l'affittiamo, e questa non è la cosa. Non è come, diciamo, il primo messaggino SMS che lei ha letto del bed and breakfast. Bed and breakfast li conosciamo, sono diciamo presenti in modo capillare sul territorio nazionale. Quella è un'attività riconosciuta e regolamentata. C'è anche il piacere di svolgere una professione. L'accoglienza è anche una cosa piacevole, si fa interessante. In certe zone d'Italia c'è chi ha delle case rurali che le ristrutture le mette proprio a disposizione come bed and breakfast, oppure anche nelle città. Questo è un ragionamento. Un conto è chi alla sera cenando con la moglie si guardano in faccia e dicono: qui noi non riusciamo ad arrivare a fine mese, dobbiamo pagare la rata del mutuo, dobbiamo pagare la bolletta della luce, dobbiamo anche andare a fare la spesa, come facciamo visto che i nostri stipendi non ci arrivano? Oppure c'è chi è andato in cassa integrazione, c'è chi ha perso il posto di lavoro, perché purtroppo questo è un fenomeno purtroppo sempre più diffuso in Italia, di chi va in cassa integrazione, di chi perde il posto di lavoro. Allora ci si inventa questo fatto, cioè di dire: abbiamo una camera, la affittiamo normalmente, diciamo, a 40 euro a notte, che diventano 45 se si offre anche la prima colazione, la affittiamo a persone che vengono in città perché magari hanno appuntamenti di lavoro, perché vanno alle fiere o per altri motivi, comunque sono di passaggio, e arrivando a fine mese quei 500-600 euro in più riusciamo a portarli a casa, che ci possono servire. Diciamo, mi sembra che le medie nazionali oscilli tra i 500 euro e i 150, sbaglio, qualcosa del genere. La media nazionale di quanto al mese una famiglia riesce a realizzare con questa attività? Ah beh, sì, certo, poi ovviamente dipende anche molto da quante notti riescono ad affittare, però sì, mediamente si arriva attorno ai 500 o 600 euro al mese, come al massimo, come entrata per aiutare appunto la famiglia, perché si parla di 40 euro a notte. Consideri che normalmente, noi abbiamo sempre fatto queste statistiche, l'ospite non si ferma mai più delle 2-3 notti al massimo, perché di solito sono, diciamo, pernottamenti molto brevi, e nell'arco del mese queste, diciamo, presenze si possono rivedere quelle 3-4 volte, quindi diciamo si possono affittare 10-15 notti al mese, ecco, più o meno, e questo, diciamo, porta a quegli importi che dicevamo prima. Sentiamo Linda, buongiorno. Buongiorno a lei, chiamo da Roma. Volevo portare la testimonianza di quella che è stata un'esperienza in realtà di mia madre quando è rimasta vedova. E presa dal terrore della solitudine, dopo aver cresciuto 6 figli, ritrovandosi in una casa grande da sola, ha deciso di affittare le stanze. Quindi non era per bisogno, era più per, diciamo, sentirsi... No, diciamo che ovviamente i soldini che ricavava le facevano molto comodo, questo è ovvio, però era più che altro la sua... una paura dovuta alla solitudine proprio relazionale. Almeno qualcuno in casa. Almeno qualcuno in casa, qualcuno che mi riporti a fare qualcosa in casa, perché poi lei in realtà cucinava anche per questi ragazzi, pur non dovendolo fare, e questi ragazzi si relazionavano a lei come, diciamo così, una mamma in affido, e lei si sentiva molto gratificata da questa attività, e tanto più che quando la sorella mia piccolina, diciamo piccolina agli occhi di mia madre, al momento ha 39 anni, si è trasferita in Inghilterra. Si è trasferita in Inghilterra, mia madre ha detto: ma come faccio a raggiungerla, eccetera eccetera, ha detto: va bene, il mio lavoro è un passaporto internazionale, mi compro una casa vicino a lei ed apro un bed and breakfast. Così ha fatto, all'età di 64 anni si è trasferita in Inghilterra, un po' di esperienza, anche se diversa da bed and breakfast, l'aveva maturata con gli studenti universitari qui a Roma, ed ora all'età di 68 anni, distanza di 4 anni, al bed and breakfast più attivo di Londra, presumo, perché è sempre piena. Quindi ha, diciamo, ha realizzato un'attività da quella che era una soluzione. Ha realizzato l'attività, ma non solo. Mia madre è una persona proprio che è soddisfatta, pagata sotto il profilo umano-relazionale. Lei ci ha portato un esempio gratificante che ci piace ascoltare. Noi però parliamo di un caso totalmente diverso, persone che in realtà ne farebbero molto volentieri a meno. C'è l'idea. Alla crisi. No, ma io volevo semplicemente portare alla luce un secondo aspetto, che anche quando si fa per motivi economici, come al momento a vostro dire sta accadendo, in realtà si possono cogliere degli aspetti ai quali non si aveva pensato. Sì, ma me ne rendo conto, uno smette di lavorare o deve interrompere il proprio lavoro, si guarda intorno, cosa fa? Questa è un'attività possibile, è anche auspicabile, è anche interessante, però molto interessante. Qua è la necessità maledetta di togliersi uno spazio di casa e farsi entrare degli estranei a casa, perché si ha bisogno. Melog, la realtà condivisa. Dividiamo il bagno e la cucina, dividiamo le sedie fatte in Cina, ci chiediamo se una casa interinale ci fa bene o male. Conviviamo in magica simbiosi, conviviamo ma non siamo appiccicosi, indecisi fra la vita liceale e quella coniugale. Non confondere l'affitto con l'affetto, siamo uniti per pagare la bolletta. 800 24 00 24, vedo persone molto interessate alla mia vita professionale, se volete ve la posso raccontare, ma in privato non interessa raccontarla alla radio. Hanno grossi dubbi sul fatto che io lavori, è chiaro, ho sentito dire anche da mio padre, buon'anima, tu adesso che hai imparato a mettere due parole in fila, cosa ti credi di fare? Il lavoro non è soltanto quello che implica calli sulle mani e sudore della fronte, esiste anche il lavoro di tipo intellettuale, anche se a molti questo può sembrare strano e singolare. Andando avanti, oggi stiamo parlando di una nuova maniera, una nuova forma, una risorsa estrema che stanno cercando le famiglie italiane, di affittarsi parti della casa. Premetto che non è un'attività di tipo imprenditoriale, come il bed and breakfast, come affittare delle camere, è un'emergenza. Affittano per alcuni giorni della settimana, per alcuni mesi dell'anno, di fronte a una necessità impellente, delle stanze di casa a persone di passaggio. Fabio, buongiorno. Buongiorno. Senta, sì, potrei raccontare un'esperienza che ho avuto, no? Sì. Dunque, sono venuto a Milano nel 58, all'inizio del 58. Inizialmente ho abitato in un pensionato, avevo una mia camera col bagno interno, però la scomodità era che dovevo andare tutte le settimane a portare a lavare la mia roba, ecco. E da chi andava? Da una lavandaia? Come funzionava? No, portavo in una tintoria. In una tintoria. E la signora, diciamo, che gli affittava a casa non faceva questo servizio? No, questo era un pensionato. Era un pensionato diretto dai preti. I preti mica lavano le mutande agli altri, chiaro. Poi loro mi hanno cacciato via perché arrivavo a casa la sera tardi. Vabbè, comunque. Vabbè. E sono andato in famiglie. Prima sono andato in una famiglia, eravamo dentro in quattro, due stanze. E sono stato lì un po', però dopo mi sono stufato. Sono andato da una signora, ero io in una camera, in un'altra camera c'era uno studente universitario. Sono stato lì dal 62 al 74 quando mi sono sposato. Ci ha messo le radici, stava benissimo. Questa signora mi lavava tutto, no? Praticamente io all'inizio del mese pagavo, no? Lei mi faceva tutto quanto. Quindi aveva, diciamo, era una situazione ottimale, era come in un albergo. Era una cosa veramente deliziosa. Ma la sua vita personale come la svolgeva? Non poteva ricevere nessuno, naturalmente. Beh, quello no. Era proibito. Quelle cose bisognava trovare l'amico che aveva l'appartamento. O pensava anche a questo la signora? No, non era nelle sue invenzioni. No. Fa una domanda. Non è che era una signora che lavorava anche lei, no? Quindi durante il giorno, se avessi voluto, avrei potuto, però anche io lavoravo, quindi non potevo. Era un patto di lealtà, non lo faceva, non portava donne. Diciamo che... Va bene, interessante. Sara, buongiorno. Allora, Allora, buongiorno. Io con curiosità ascolto tutte le testimonianze e aggiungo la mia. Io ho un bed and breakfast e anch'io, diciamo, ho cominciato questa attività per bisogno, quindi per crisi, eccetera. Poi lo dica, non è una cosa che si improvvisa, è un lavoro. No, esatto, difatti proprio a questo volevo arrivare. Allora, ormai in Italia avere un bed and breakfast e una fitta camere, a differenza della signora che è andata in Inghilterra, dove tutto, ahimè, è più semplice, oltre alla bellezza dei rapporti umani, che quelli nessuno li toglie, io volevo aggiungere che ci sono delle beghe quotidiane. Esempio, io ho un bed and breakfast a Roma, a casa mia, tasse di soggiorno, inserimento di polizia quotidiana per tutti gli ospiti che abbiamo a casa. No, queste cose poi accadono quando uno vuole legalizzare, ahimè. Però meglio stare in regola di questi tempi, secondo me, non lo so. Sì, esatto, bisogna stare in regola, però vedo che invece chi non sta in regola alla fine probabilmente se la gode di più a meno beghe, perché poi diventa dipende. Un lavoro vero, ecco, oltre magari ad avere anche un altro lavoro, uno ha anche tutto l'insieme di faticosissime beghe burocratiche, che adesso non la voglio Poi anche il contatto con i clienti non è una cosa certo lieve. Non è lieve, ci sono anche da noi bagni in comune, quindi ci sono tutti, diciamo, gli svantaggi. C'è chi non si accontenta, c'è chi non gli sta bene. C'è chi non si accontenta, chi vuole spendere molto poco, chi però poi... poi le mette il giudizio cattivo in internet, sì, quindi lei... Esatto, poi c'è TripAdvisor, allora tu ci metti il cuore, gli dai una stanza magari a 30 euro. Però e loro scrivono che era poco pulita. No, quello grazie a Dio mai, perché insomma da no, però scrivono che magari la colazione era scarsa, che quindi non c'era il burro fresco oppure il latte caldo. E, ecco, queste cose qui, quindi insomma io... Quindi alla fine si rende conto che è un grosso onere. Che non può essere improvvisato. Assolutamente, assolutamente. Quindi consiglio a tutti che quando uno decide di intraprendere questa, alla fine diventerà un'attività vera, perché se solo abbiamo dei controlli ci sono delle multe pazzesche. Grazie. È chiaro, per fare una distinzione, per spiegare, le persone di cui stiamo trattando, la porzione di popolazione di cui stiamo trattando questa mattina, non sono dei professionisti dell'accoglienza. Sono persone che per necessità affittano una stanza e l'affitto anche chi probabilmente è molto di bocca buona. Non si pone il problema se il burro è fresco o il latte caldo la mattina. Vuole risparmiare, anche lui è figlio della crisi, è vittima della crisi, quindi probabilmente viaggia per lavoro, deve andare a una fiera, non si può più permettere di pagarsi l'albergo, quindi va in una famiglia in una stanza. Mauro. Buongiorno, io sì. Chiamo da Bologna. Volevo raccontare la mia vicissitudine nella camera in affitto. Che presi i primi anni 70, quando arrivai a Bologna, facevo il cuoco e condividevo la stanza con un altro ragazzo, quindi si spendeva ancora meno. E a proposito di condivisioni, noi condividevamo anche la sveglia, perché ne avevamo solo una, siccome lui faceva... Alla stessa ora suonava? Magari... No, lui faceva il postino, quindi si alzava, la sua sveglia suonava alle 5 e tre quarti, che era poi la mia sveglia, e lui poi, prima di uscire, mi puntava alle 8:40 quando io dovevo alzarmi. Quindi lei se ne beccava due di sveglie? Io mi beccavo due sveglie, lo maledicevo tutte le mattine, però era un ragazzo simpatico, molto simpatico, meridionale, e abbiamo condiviso per 3 anni questa stanza. Al prezzo di 25.000 lire al mese, che era praticamente un quinto del mio stipendio. Ecco, lei ci sta dando un'immagine romantica dei tempi passati, che pensavamo comunque relegata a momenti della vita, ambiti studenteschi, ambiti comunque transeunti. E invece la realtà che tocchiamo oggi è di tipo diverso. Gabriele. Sì, buongiorno signor Nicoletti. Senta, io sinceramente volevo dirle che non è solo oggi, diciamo, che siamo in momenti di crisi, che esistono queste cose. Io mi ricordo gli anni 90, quando sono andato a Milano, vivevo in casa di una famiglia che erano più che altro dei miei parenti, e pagavo allora 800.000 lire. Pagavo. Pensi se non erano parenti? Cioè, no, guardi, si figuri che poi frequentando, conoscendo altre persone, mi hanno detto: guarda, ma perché non vieni su a casa mia, che almeno ti faccio risparmiare qualcosa. Spendi meno, la faccia dei parenti, con i parenti serpenti. Sì, ma infatti, guardi, poi sono andato a casa di altri emigrati e pagavo allora 400.000 lire. E quindi era il doppio del prezzo di mercato, pensi un po'. Esatto, io pagavo 800.000 lire a casa di miei parenti, poi sono andato a casa di estranei. Mi facevano pagare 400.000 lire, cioè proprio. Fermiamoci, perché adesso stiamo entrando nel simpatico folklore, ma in realtà la situazione è diversa. Alberto Zanni, ricordo, presidente nazionale Confabitare, che è questa associazione che riunisce tutti coloro che vogliono che venga tutelato il diritto di proprietà nella piena valorizzazione e funzione sociale che questa venga attribuita, quindi anche il diritto di potersela affittare. Ecco, rispetto a questa seconda sventagliata di pareri, Alberto Zanni, vogliamo rispecificare ancora meglio qual è la fattispecie di cui stiamo parlando, per non far confusione? Sì, secondo me, come dire, oggi abbiamo sentito dagli ascoltatori tanti esempi, tanti aneddoti che però non si assomigliano a quello che è il problema, il tema principale di questa trasmissione. Cioè, il problema qual è? Di famiglie che oggi sono costrette dalla crisi perché non hanno soldi a sufficienza, dicevamo prima, per pagare la rata del mutuo piuttosto che le utenze, piuttosto che la spesa al supermercato, sono costrette ad affittare in modo così anche occasionale, in modo anche non organizzato, una stanza a persone, ad ospiti appunto di passaggio, per poter arrotondare le entrate economiche della famiglia. Che io capisco però, Zanni, che sono le persone che più hanno pudore poi di venirlo a raccontare. Assolutamente, infatti il problema poi è anche quello. E quindi esula dal fatto, come dalle testimonianze che abbiamo sentito, sicuramente simpatiche, come diceva lei, anche in alcuni aspetti romantiche, però è tutto un altro aspetto. Qui ci sono persone che, come si dice, non arrivano alla terza settimana, e quindi sono costrette, c'è chi va dai compro oro per portare la catenina, il braccialetto piuttosto che gli orecchini, infatti non è un caso che questi negozi compro oro stiano aprendo in tantissimi punti di tutte le città d'Italia, quindi c'è un fiorire di questi negozi in modo assolutamente incredibile, e chi non porta questi gioielli o perché li ha già portati o perché li vuole tenere. È il passo successivo, si affitta una stanza, che non, esatto, non è un affittare allegro, ilare, giocoso per socializzare, ma è vissuto anche con pudore. Però questa mattina, se qualcuno che è in questa situazione avesse la cortesia e il piacere di poter telefonare, potremmo vederlo anche dal punto di vista del soggetto. Melog, la realtà condivisa. .800240024, riprendiamo l'argomento che tocchiamo questa mattina, che mi rendiamo conto che è un argomento che è difficile da raccontare in prima persona, difficile da ammettere, probabilmente anche difficile da rendicontare al proprio vicinato, che improvvisamente una famiglia che viveva in tranquillità nella propria casa deve affittare una stanza di quella casa, deve farlo per necessità, non per una scelta di imprenditoria, ci inventiamo un nuovo lavoro, no, abbiamo bisogno di arrotondare o di supportare o di sostituire un budget familiare che non c'è più, e quindi ci affittiamo una stanza. Ricordo, affittare una stanza di casa propria, che si è arredata, che si è costruita, che si è messa a posto, che si tiene in ordine, dove prima viveva un familiare, restringendo gli spazi vitali della famiglia per necessità, non è una cosa molto allegra. Donatella, buongiorno. Sì, buongiorno. Non mi sembra giusto dire che non è una cosa allegra. Io no, non è una festa. Sì, ma non è una festa. Uno lo fa per necessità. No. Dico il mio parere. Io ho cominciato a farlo quando mio figlio è andato a studiare fuori, e quindi per sopperire al costo della sua casa ho messo a disposizione di studenti, ragazzi, stagisti, eccetera. Ed è uno scambio gradevolissimo. Poche regole ma chiare. Si lascia il bagno pulito, non si lascia niente da lavare in cucina, e l'educazione è alla base dei rapporti. Donatella, scusi, no, Donatella, lei è perfettamente coerente a questa missione, però se lei ne potesse fare a meno, penso che non... No, lei lo fa volentieri. No. Io lo faccio volentieri, perché conosco dei ragazzi stranieri, cinesi, polacchi, di tutte le nazionalità. Sì, però quindi... non tutti, Donatella, hanno voglia di dare un senso alla propria vita occupandosi di ragazzi. Qualcuno preferirebbe la sera che torna a casa con la stanza in più usarla per metterci i vestiti che si toglie di dosso. Invece che... dipende anche dall'appartamento, evidentemente. Se è un piccolo appartamento è chiaro che la convivenza, però nella mia casa c'è un unico bagno. che tutti devono tenere puliti e comunque sì, buona, ma se io posso evitare di dover pulire lo sgocciolamento di un altro, preferisco farlo piuttosto. Non lo pulisco perché se lo puliscono loro, è questo che io voglio dare come messaggio, cioè tutte queste persone che hanno avuto difficoltà, ripeto, poche regole ma sicure, se io lascio il bagno pulito anche tu lo devi lasciare pulito, se io lascio la cucina con i piatti lavati tutto in ordine, ognuno ha un piccolo spazio nel bagno per riporre le sue cose, nella credenza in cucina, cioè è una cosa estremamente gradevole, non la vedo come è chiara la sua cosa, lei è una affittacamere felice, qua stiamo parlando di qualcos'altro, gente non ha nessuna voglia di fare quello che fa lei, di riempire il suo spazio, ha già la famiglia, ha già la sua vita, ha già la sua socialità, è qualcosa imposto. Ricordo Alberto Zani, presidente nazionale di Confabitare. Stiamo raccogliendo l'apologia dell'affittacare, mi fa piacere che persone riempano la loro giornata, ma non è questo il caso. Infatti io vorrei distinguere tra anche l'ultima testimonianza della signora che evidentemente fa l'affittacamere ed è contenta. Sì, è sola, non c'ha niente da fare, ha bisogno di un sostituto di figlio di cui occuparsi, in più prende anche un affitto, è ben felice, è chiaro. No, ma ci fa piacere, come sono contente tante persone che in Italia fanno l'affittacamere o che gestiscono un bed and breakfast, ma questo è normale. Qui stiamo parlando di famiglie che sono obbligate dalla crisi ad affittare la camera alcune notti perché non arrivano a fine mese. Sembra quasi, scusi Zaddi, che ci sia un desiderio di rimozione. Tutti vogliono far vedere che questa è una bella cosa. No, purtroppo no. È in aumento e non è una bella cosa perché queste sono famiglie che vorrebbero avere una loro intimità, vorrebbero magari poter girare in casa in pigiama perché vanno a letto e hanno dell'imbarazzo perché c'è un'altra persona sconosciuta. Cioè, avranno delle mogli, dei mariti, avranno anche una lavorabilità personale, coniugale, non è proprio un'allegria averci un estraneo per casa, scusate. E magari sono in imbarazzo perché nei momenti in cui vanno nel bagno a prepararsi per andare a letto oppure la mattina quando ci si alza per prepararsi, per lavarsi, per uscire, c'è un'altra persona che è nel bagno, nel tuo bagno, che sta... Che non sai nemmeno chi sia, fra l'altro. Esattamente. Quindi... Pensate che allegria, se facciamo la storia felice dell'affitta camere contento. È chiaro che una signora che non c'è il figlio, che deve ancora esprimere la sua possessività materna verso altri ragazzi, è tutta contenta. Ma non a tutti fa piacere dover dire al ragazzo non la fare fuori della tazza, non vorrebbe nemmeno trovarsi in questa situazione. Voi avete avuto un'altra iniziativa insieme al Codacons, i nonni che adottano studenti, assomiglia un po' a questo episodio dell'ultima signora che ha chiamato? Sì, questo assomiglia, con l'unica differenza che è un'attività dove chi ospita non percepisce, diciamo così, del denaro, non percepisce un affitto, è uno scambio di ospitalità, una compensazione emotiva, diciamo. Una compensazione emotiva e sentimentale, dove le persone anziane che sole o in coppia, che hanno una camera libera perché magari i figli si sono sposati o per altri motivi, la utilizzano per ospitare gratuitamente, quindi non c'è un discorso economico in questo caso, gratuitamente degli studenti che arrivano fuori sede per venire a studiare all'università e che hanno necessità di un alloggio. Senta, un'ultima cosa, Zanni, perché me lo chiedono in molti, me lo domando anch'io. Questa attività di affitto controvoglia, coatto e obbligato, passa attraverso le regolari transazioni o molte volte al nero, secondo lei? Spesso è nero, perché chiaramente chi lo fa per poche notti e chi lo fa anche per arrotondare... E soprattutto non vede questo come il futuro della propria attività, della propria professione, lo fa così occasionalmente in nero. È chiaro che nei momenti in cui, come spesso capita, persone che iniziano a fare questa attività di affittare le camere sporadicamente, poi iniziano a organizzarsi, diventa una cosa continua, diventa una vera e propria professione, come dicevamo prima, e allora cambia tutto, allora ci sono le iscrizioni alle camere di commercio, la partita IVA, tutto quanto, le comunicazioni per quello che riguarda la polizia. Questo abbassa anche un po' anche il livello dell'ospite, perché un ospite che non ha nemmeno bisogno di fatturazione, non deve rendicontare, quindi è altrettanto disperato, mi verrebbe da dire, rispetto alle persone che affittano la casa. Sì, beh, c'è anche da dire che essendoci poi anche un risparmio notevole rispetto, diciamo, a chi affitta le camere o i bed and breakfast, molti dicono vabbè magari non ho la ricevuta per poterla scaricare o per poterla per potermi far rimborsare, però pago poi meno. Beh, 40 euro è contro i 200 di un albergo medio a Milano sotto stagione di fiera, il risparmio notevole. Grazie Alberto Zanni, grazie a Valerio Rocchetti e Fabrizio Intonti, ci sentiamo domani.